Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema molto controverso, quello della scienza, ma soprattutto degli errori nei quali la scienza può incappare, perché anche gli scienziati sbagliano e tante polemiche, ricordiamo per esempio quella delle settimane scorse sui cambiamenti climatici, dimostrano che alla fine gli errori sono sempre possibili. La scienza ha dei limiti, anzi può prendere delle autentiche cantonate. Questo è il titolo infatti del libro che questa sera vi propongo, il libro scritto da un grande astrofisico americano di origine rumena, Mario Livio, che vive, studia e lavora a Baltimora e che ha scritto il libro appunto Cantonate, perché la scienza vive di errori, pubblicato da Rizzoli, 462 pagine, 18 euro, tradotto da Stefano Galli. Non c'è nulla di scandaloso naturalmente che si sbagli, purché si riconosca che questo è possibile, anzi fatale, e che questi errori possono avere delle conseguenze drammatiche. Infatti il libro affronta quelle grandi cantonate scientifiche, lo cito, ossia quegli errori concettuali abbastanza gravi da pregiudicare un'intera teoria o impresa che possono in linea di principio ritardare il progresso scientifico. E il libro si sviluppa quindi considerando l'insegnamento e l'esperienza di cinque giganti della ricerca e del pensiero scientifico. Di ciascuno di essi ci viene offerta una sintetica presentazione per soffermarsi poi sulla cantonata che appunto ciascuno di essi ha preso. Per esempio Darwin viene certamente definito e riconosciuto per l'Ottocento quel che Newton era stato alla fine del Seicento ed Einstein nel Novecento. Eppure anche lui ha sbagliato e l'errore di Darwin, secondo Livio, è la pangenesi, che sarebbe stata smentita poi dallo sviluppo genetico successivo. Insomma, anche i geni sbagliano, e allora come dobbiamo comportarci e considerare la scienza? Lo chiediamo all'autore. Buonasera Mario Livio. Good morning to you. Mario Livio, lei scrive nel suo libro che la scienza vive di errori. Da questo punto di vista, che cosa insegna l'esperienza dei cinque scienziati che lei ha preso in considerazione? Di solito, quando parliamo di progresso scientifico, lo facciamo come se la scienza procedesse in linea retta verso la verità. Ma non è così. In realtà, quello della scienza è un percorso a zigzag, pieno di false partenze che non portano a nulla, e bisogna ricominciare da capo. In particolare, ho scelto questi cinque giganti per dimostrare che anche quando parliamo di luminari della scienza, scopriamo che anche loro hanno preso delle sonore cantonate, che però alla fine hanno portato a grandi scoperte. Ed ecco perché, nel titolo originale, le chiamo brillanti cantonate. Non parlo di cantonate che sono state prese perché gli scienziati sono stati approssimativi o distratti, ma perché si trattava di persone abituate a pensare in modo non convenzionale, fuori dagli schemi. E questo è il modo in cui si arriva alle grandi scoperte. And those are really the things that lead to great discoveries. Delle cantonate di cui lei parla, qual è quella che si può considerare più clamorosa e maggiormente foriera di conseguenze? Io credo che tutte le cantonate di cui parlo nel libro siano molto importanti. Ad esempio, quella di Charles Darwin, dove dico che non aveva capito il concetto di ereditarietà. Questo errore avrebbe potuto distruggere completamente la sua teoria sull'evoluzione, ma portò invece a una semplice comprensione dell'ereditarietà e a come questa aiuta l'evoluzione attraverso la selezione naturale. Nel caso di Lord Kelvin, ad esempio, l'età che lui aveva stimato per la Terra è circa un cinquantesimo della vera età del nostro pianeta. Se avesse avuto ragione lui, anche la teoria dell'evoluzione di Darwin non avrebbe potuto funzionare, perché non ci sarebbe stato tempo sufficiente per l'evoluzione. Parliamo poi della cantonata di Linus Pauling. Lui aveva trovato un modello errato per il DNA, ma il messaggio che aveva usato e il suo modo di pensare furono quelli poi adottati da Watson e Crick quando trovarono il modello corretto del DNA. Nel caso di Fred Hoyle, un celebre astrofisico che suggerì che il nostro universo non cambia mai e si trova in una forma statica, l'errore che fece incoraggiò tutti gli altri a cercare di scoprire se veramente l'universo stesse cambiando. Ed è così che alla fine siamo arrivati al modello del Big Bang. Infine, con Einstein, il termine che introdusse e che ricavò dalle sue equazioni si rivelò essere precisamente quello che scoprimo nel 1998, e cioè che l'espansione dell'universo sta accelerando. Tutti questi errori, quindi, sono stati molto importanti, e alla fine hanno portato a importanti scoperte. Verso la fine del suo libro, lei scrive che proprio come le persone, scienziati inclusi, sono a volte poco disposte ad ammettere gli errori, così in certi casi si oppongono testardamente alle nuove idee. Insomma, c'è questa opposizione a quello che va contro le idee più diffuse? That's right. I mean, you know, all of us, especially when we grow older. È vero, tutti noi, soprattutto quando invecchiamo, facciamo sempre più fatica ad ammettere i nostri errori, soprattutto se questi fanno parte di un grosso lavoro che abbiamo portato avanti per tutta la vita. E questo è vero anche per i grandi scienziati, ed è quello che cerco di spiegare. Persone come Lord Kelvin, per esempio, o Fred Hoyle, che erano due veri geni e che hanno fatto delle scoperte veramente importanti, quando alla fine fecero degli errori, per loro fu estremamente difficile ammetterlo, e quindi continuarono ostinatamente ad attaccarsi alle loro teorie sbagliate, piuttosto che accettare le nuove idee. Questo è vero per ognuno di noi, ma lo è anche, che lo si creda o no, per i grandi scienziati. E poi nelle ultime righe associa la ricerca e l'intuizione scientifica con il mondo dell'arte. In che senso si può parlare di un legame tra queste due aree? Non ci sono legami diretti tra intuizioni scientifiche e artistiche, ma alla fine sia gli artisti che gli scienziati sono impegnati in processi creativi e cercano di esprimere il mondo che li circonda. E con questo non intendo solo il mondo fisico, ma anche le emozioni e tutto il resto. Nella scienza cerchiamo di dare spiegazioni dirette, dalle quali si possono anche fare previsioni. Gli artisti lo fanno più basandosi sulle sensazioni, su come sentono le cose e come le cose sentono loro. Ma in entrambi i casi il risultato è la creazione di un nuovo mondo nella mente della persona che fa queste cose. E di conseguenza, in entrambi i casi, quando si pensa in modo non convenzionale, è probabile che si arrivi a qualcosa di nuovo e interessante. E questo è vero sia nelle scienze che nell'arte. Il suo libro e la storia dei grandi errori dovrebbe spingere anche gli scienziati all'umiltà. Questo sentimento è diffuso tra i suoi colleghi? No, I'm not sure it is widespread. I mean, there definitely are scientists who are. Non credo che l'umiltà sia così diffusa. Ci sono scienziati che sono umili e altri che non lo sono. Cito un pensiero di Bertrand Russell che dice che è una buona idea non essere mai assolutamente certi di niente. Bisogna sempre avere dei dubbi. Lui affermava di sostenere questo perché aveva paura del fanatismo. Ma comunque è vero, sia nella ricerca che in altre aree, fa sempre bene avere la mente aperta verso altre opinioni ed essere un po' più umili, invece di pensare di avere tutte le risposte. Grazie a Mario Livio, autore di Cantonate. Buonanotte. Thank you very much. Thank you for having me. E di uno scienziato italiano, Edoardo Boncinelli, vi propongo Una sola vita non basta, storia di un incapace di genio, pubblicata da Rizzoli, 430 pagine, 19 euro. Boncinelli un grande scienziato, anche egli, biologo molecolare, divulgatore, molto consapevole dei propri limiti, scrive infatti nelle primissime righe del libro di essersi sempre considerato un tipo insulso, una sorta di imbucato nella vita, uno capitato lì per caso senza l'equipaggiamento adeguato. Per rendermi degno di attenzione, aggiunge, ho dovuto continuamente dimostrare di saper pensare e fare qualcosa di valido. In realtà il suo è un percorso particolarmente interessante, un personaggio popolare che ci spiega molte tappe del progresso della scienza, in particolare nel campo proprio della genetica e della biologia. E Boncinelli parla per esempio del grande dibattito che Darwin suscitò e dello scontro fra gli evoluzionisti e i creazionisti, nel quale evidentemente egli si schiera a favore dei primi. Nel ripercorrere la propria carriera scientifica, Boncinelli ricostruisce un pezzo di storia della scienza negli ultimi decenni, ricostruendo un percorso che è fatto anche con ironia, come illustrano gli aforismi ai quali pure Boncinelli si è dedicato, come questo che affronta il tema del quale oggi stiamo partiti, quello degli errori nella scienza. Oggi sappiamo, scrive Boncinelli, che la conoscenza scientifica non è infallibile, figuriamoci le altre. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di arte, in particolare di Rinascimento, perché a Firenze e Prato, nel giro di quindi di poche decine di chilometri, sono in corso tre importanti mostre che ci permettono di accostarci in modo particolare a questo grande momento dell'umanità. A Firenze, alle Gallerie dell'Accademia, fino all'8 dicembre è in corso la mostra, che naturalmente arriva fino al Rinascimento, che si intitola Arte Civica Firenze tra Medioevo e Rinascimento, ideata da Daniela Parenti, nella quale si mettono in luce appunto quelli che sono stati i simboli del potere civico fiorentino. Mentre tornano sempre a Firenze, alla Villa Bardini, molti capolavori del Rinascimento. La Villa Bardini era quella di un famoso antiquario che aveva raccolto una bellissima collezione, ma che aveva anche venduto molti capolavori all'estero, in particolare questi che sono andati a finire a Parigi al Museo Jacquemart-André e che adesso ritornano nella sede originaria, nella mostra Il Rinascimento da Firenze a Parigi, andata e ritorno, che è in corso fino al 31 dicembre. Questa mostra è curata da Giovanna Damiani, Marilena Tamassia, Nicola Senfer-Garnot. A Prato, infine, è in corso un'altra mostra importante che si intitola Da Donatello a Lippi, Officina Pratesi, e sarà aperta fino al 13 gennaio del 2014. Si svolge a Palazzo Pretorio, curata da Andrea De Marchi e Cristina Gnomi Mavarelli con il catalogo di Schirà. Siamo dunque in un magico momento del 400, all'inizio del Rinascimento, quando a Prato, casualmente, o forse non del tutto, lavorano alcuni tra i maggiori artisti dell'epoca: Donatello, Paolo Uccello, Michelozzo, Filippo Lippi. E su questa mostra sentiamo cosa ha da dirci Marco Carminati. Ciao Marco. Ciao Salvatore, ho da dire solo cose molto belle, perché si tratta di una mostra rara in Italia. Rara perché è una mostra di studio, è una mostra basata sulla filologia, è stata realizzata sostanzialmente dall'Università di Firenze con Andrea De Marchi, che è il titolare della cattedra, e dalla sovrintendenza, in particolare da Cristina Gnoni Maravelli, che è la responsabile, diciamo, della settore di Prato per la sovrintendenza fiorentina. Quindi sono anni che stanno lavorando alla ricerca delle opere che sono partite da Prato nei secoli e si sono allontanate, sono finite nei grandi musei, nelle collezioni private di tutto il mondo, per cui questa è l'occasione per rivedere a Prato parti di politici, parti di quadri che erano stati smembrati, e di attraverso l'allestimento della mostra di vedere un po' qual è stata la storia di questo momento artistico, che ha segnato uno dei momenti più alti non solo per Prato ma per l'intera Toscana. E per qualche anno veramente questa piccola città è diventata una delle capitali dell'umanesimo italiano. La mostra è molto tradizionale, si comincia appunto con le vicende legate soprattutto al Duomo, in particolare al culto della Santa Cintola. Prato conserva una reliquia molto importante che si considera essere la cintura della Madonna donata all'apostolo scettico per antonomasia, cioè a Tommaso. E questo oggetto fu naturalmente nel Medioevo portato in questa città, e attorno a questo oggetto venne costruito il Duomo. Nel 400 fu il momento di decorare il Duomo ed ecco che cominciarono varie personalità a venir chiamate in questa fabbrica. Donatello, per esempio, e Michelozzo fecero il pulpito esterno al Duomo dove veniva esposta la cintola, e poi all'interno appunto i grandi cicli di affreschi per le cappelle. La cappella principale è proprio decorata da Filippo Lippi, che viene in questa città per questa importante commissione. Quindi la mostra sta attorno al grande cantiere del Duomo. È necessario assolutamente vedere il Duomo prima o dopo la mostra, perché tutta la mostra è incentrata su questo tema. E noi nelle varie sale, nei due grandi piani del Palazzo Pretorio, che tra l'altro è stato recuperato per l'occasione e diventerà la sede dei musei civici di Prato, noi possiamo vedere appunto i precedenti, cioè quando per esempio viene chiamato Beato Angelico per affrescare la cappella, e Beato Angelico poi non accetta la commissione, però le sue opere arrivano le opere del giovane Paolo Uccello, che viene chiamato a fare una delle cappelle laterali nel Duomo, e così via fino al momento appunto metà del 400, quando si affaccia da Firenze questo frate un po' malandrino, che era appunto Filippo Lippi, che qui durante il soggiorno a Prato realizza anche delle pale per un convento di suore, e in uno di questi conventi si innamora e seduce appunto Margherita Butti, che poi diventerà la mamma di Filippino Lippi, grande altra gloria della pittura italiana. In occasione della mostra esce il libro di Roberto Piumini, L'amorosa figura, pubblicato da Schirà, 74 pagine, 12 euro. Piumini è un noto scrittore per ragazzi, che ci dà qui un racconto delizioso e leggero su una pagina memorabile nella vita di Filippo Lippi, che era un frate assai gaudente e che proprio a Prato ebbe un'avventura in età per l'epoca avanzata, addirittura con una suora dalla quale poi sarebbe nato un altro grande pittore, Filippino Lippi. Nel libro troviamo dunque Lippi, padre, anzi futuro padre a Prato, che qui manifesta la sua qualità, che così Piumini descrive. Filippo era pittore, un poeta d'immagini, quanto basta per mantenere mente d'anima capace di viste e desideri alti, complessi e anche sublimi. E lo stesso Piumini ha curato nell'ambito della mostra un percorso per bambini con 20 brevi testi in rima tra filastrocche, poesie e indovinelli per appassionare anche i giovani visitatori alle meraviglie del Rinascimento. Un approccio insolito all'arte è quella di Francesca Bonazzoli, una nota giornalista, e Michele Robecchi, critico e curatore di mostre, che si intitola Io sono un mito, è pubblicato da Electa, 144 pagine, 19,90 euro, con una dissacrante copertina che riproduce un'opera di Nick Walker in cui la Gioconda ha assunto le fattezze della signora Simpson, quella dei fumetti. E questo è lo scopo del libro, spiegare come alcune opere d'arte siano diventate degli autentici miti universali, delle icone, ridotte spesso, come ricorda Maurizio Cattela nella prefazione, elementi pubblicitari, un utilizzo tuttavia che ne sottolinea l'appartenenza pop che esplode soprattutto negli anni 60. La statua del Laoconte nei Musei Vaticani, per esempio, la ritroviamo pari pari nella posa di John Travolta nella Febbre del sabato sera, piuttosto che in una vignetta satirica di Nixon. E qui il libro considera 30 opere mitiche, dal Discobolo di Mirone fino alle Fils de l'Homme di Magritte, con alcune notazioni dalle quali me ne propongo una che riguarda una delle icone più diffuse e conosciute in tutto il mondo, l'Ultima Cena di Leonardo, riconsiderata generalmente da Andy Warhol. Fra tutte le rielaborazioni del Cenacolo rimane esemplare il geniale utilizzo iconografico che ne ha fatto Andy Warhol, il quale, nella sua ultima mostra prima della morte, tenuta a Milano nel gennaio 87, proprio sul tema dell'Ultima Cena, realizzò 8 grandi serigrafie della foto di una copia ottocentesca del Cenacolo, acquistata in un negozio religioso coreano di New York. L'idea di Warhol era appunto quella di lavorare sul plusvalore dell'immagine leonardesca, producendo multipli di una foto di una copia, a sua volta copiata dall'originale, non faceva che ribadire la qualità feticista del Cenacolo. Il suo valore era dimostrato proprio dal fatto che, come le immagini miracolose, anche l'immagine icona non ha bisogno di essere originale per diventare feticcio ed esercitare il suo potere di attrazione verso il pubblico. Warhol metteva così in evidenza la qualità connaturata dell'Ultima Cena di Leonardo, essere un'immagine sempre interpretabile, sempre modificabile, è sempre riproducibile, un feticcio a uso della venerazione di massa, la cui fama è cresciuta più attraverso le imitazioni che l'osservazione diretta. E a questo punto il confettino. Vi propongo, per rimanere in tema, La vera, fra parentesi col punto esclamativo, storia dell'arte di Sylvain Coassard, Alexis Lemoine e Roberto Piumini, per l'appunto, è pubblicato da Sonda, 48 pagine, 12,90 euro. Anche qui troviamo una serie di capolavori, l'originale e le possibile situazione precedente che può spiegare l'esito finale, con alcuni versi di Piumini che spiegano appunto l'opera d'arte. Ai genitori segnalo gli ultimi arrivi. Ultimi arrivi. Vi segnalo di un autore ormai molto popolare, Vito Mancuso, Il principio passione, è pubblicato da Garzanti, 496 pagine, 18,80 euro, un'opera di teologia sistematica, come la chiama l'autore, che si pone un obiettivo impegnativo, quello di approfondire questa domanda: che relazione c'è tra l'amore in quanto essenza specifica del Dio che crea e la struttura concreta di questo mondo? E poi un grande teologo, Hans Küng, ci dà il suo ultimo libro in Tornare a Gesù, pubblicato da Rizzoli, 332 pagine, 20 euro, tradotto da Germano Re e Marco Beck, in cui approfondisce la conoscenza del Gesù storico. A cavallo tra storia e religione è il libro di Mario Miege, che è un filosofo esperto di protestantesimo, che si intitola Martin Lutero, la riforma protestante e la nascita delle società moderne, pubblicato da Claudiana, 180 pagine, 12,50 euro. Qui abbiamo la riproposizione aggiornata di un escurso scritto nel 1983 sulla nascita del protestantesimo, ricca anche di immagini che ci riportano in uno dei momenti più drammatici del Rinascimento, quello dal quale siamo partiti in questa seconda parte della trasmissione. A questo punto vi ringrazio, vi do appuntamento alla settimana prossima. Ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Pietro La Corte in regia. Vi ricordo l'appuntamento domenica prossima alle 22:30. Vi auguro buona settimana.